È nato quando ci siamo resi conto che c'erano decine di associazioni, club, gruppi che volevano sapere che cos'era questo Expo, che impatto avrebbe avuto sulla loro vita quotidiana, e cosa voleva dire per la città e per il paese. E quindi ci siamo messi insieme con l'Unione Commercianti di Milano, l'associazione di cui io faccio parte, che è Milano Bella da Vivere, e le associazioni di via di Milano, e anche l'Ascobaires, che è l'associazione dei commercianti di Corso Buenos Aires, che è la strada di Milano che nel 1906, quando Milano ebbe il primo Expo internazionale dedicato ai trasporti, fu creata dal nulla proprio per fare festa e per onorare la prima Expo. Adesso che si avvicina il giorno fatidico, come pensate di organizzarvi? Quali sono gli eventi in preparazione? Due eventi, il primo e il 31, alla Fabbrica del Vapore, all'interno della tenda del Teatro Ciac, con 1200 bambini, collegamento con Parigi, dalle 2 del pomeriggio alle 5, in attesa del verdetto. I bambini canteranno, balleranno, aspetteranno il risultato e parleranno con Parigi. Secondo evento, 6 di aprile, Corso Buenos Aires, grande parata, comunque si vinca o si perda, la città ha volato alto e noi faremo una parata con le comunità etniche e con i milanesi per ringraziare gli uomini e le donne di Milano che hanno fatto volare alto la città nel mondo come mai negli ultimi 50 anni. È prevista una fiera del gusto con 200 bancarelle che offriranno il vecchio, i prodotti milanesi, e quindi la trippa, la carne, e i nuovi, e cioè il kebab e il sushi. Insomma, la città di Milano anche nel cibo è internazionale più che mai. Perché secondo il Comitato Milano deve aggiudicarsi l'Expo? Perché Milano non ha bisogno dell'Expo per diventare famosa, è già una città grande e conosciuta nel mondo, però può offrire, può fare da palcoscenico molto molto molto visibile a tutti coloro che hanno da offrire strumenti, pratiche, idee, progetti a far avanzare il tema che abbiamo scelto, combattere la fame nel mondo. E noi pensiamo che siamo in grado, per la nostra posizione, per la nostra visibilità, di ospitare meglio questa Expo, perché meglio della nostra rivale Smirne, perché noi offriamo al mondo qualche cosa, e cioè tutto quello che abbiamo a disposizione.